rivedere il cielo. So che starò più attento, rotolando dentro al buio, quando l'urlo della notte bacerà le mie lenzuola, quando il mondo di soppiatto girerà le spalle all'uomo. Porterò con me la vita, resterò solo in attesa, capirò cos'è la verità, per sentire che è già finita, come una piccola ferita. Lo smog che ognuno ha dentro attacca alle coscienze, corrode le intenzioni, tirando verso il basso. Sarebbe dignitoso volare via in silenzio, ma ognuno abbassa il capo e insegue il suo destino. Scivolarmi tra le dita, sorridendo alla verità, e vedere che la verità è già un poco rimpicciolita. Sento un brivido nel petto, c'è chi si sente forte e schiaccia tutto attorno, intravedo la sua fine con nitida certezza e con indifferenza ne godo compiaciuto. Guarderò tra